I carovanieri percorrono 500 metri in 25 secondi, alla velocità di 20 metri al secondo. Voi potete correre a 5 metri al secondo, se la velocità si calcola dividendo lo spazio percorso per il tempo impiegato. Quanto tempo vi serve per percorrere 500 metri?